Nell'ultimo referendum gli svizzeri hanno chiesto meno ferie e meno seconde case. Che strani gli svizzeri, così vicini e così lontani.